diretta Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivenni. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna, più naturalmente il web, se andate sul nostro sito radiocittafujiko.it, naturalmente città senza accento, potete anche scaricare l'apposita app con la quale ascoltarci in tutto il mondo. In più, se volete, ci sono anche i podcast, se andate sempre sul sito della radio c'è un apposito spazio, un apposito link che porta ai podcast di tutte le trasmissioni della radio, fra cui anche questa che sta per partire, che si chiama Città Fujiko Live Club. Ogni mercoledì un paio di ore di musica dal vivo di tutti i generi e di tutte le epoche, un paio di ore che inizia sempre, o quasi, con una novità, e anche oggi non siamo da meno e inizia con una novità veramente succulenta. L'autore di questa succulenza, se mi consentite il termine, è un giovane 28enne britannico, è nato a North Shields, che è nel nord della Gran Bretagna, e risponde al nome di Sam Fender. Sam Fender ha avuto una infanzia e una giovinezza molto, un'adolescenza per meglio dire, molto travagliata, molto povera anche, e ha avuto un sacco di problemi, e ha dovuto abbandonare la scuola per aiutare la madre per il mantenimento, visto che appunto c'era stato un divorzio tra la madre e il padre, e lui è stato bullizzato perché a quei tempi era, diciamo, diversamente magro, perché adesso non si può neanche dire la parola grasso, e ha avuto anche problemi di salute sia lui che la madre, però pare che ora tutto sia felicemente risolto. Lui si è dato completamente alla musica. Il suo primo album si chiama Hypersonic Missiles, è uscito nel 2019 e ha avuto subito un successo strepitoso, tanto che l'ha portato in testa alle classifiche britanniche e non solo. Il secondo invece è uscito lo scorso anno, si chiama 17 Going Under, che è parzialmente la novità che vi propongo quest'oggi, perché è uscito nel 2021, ma è stato riproposto sul finire dello scorso anno in versione doppia, e l'altro dischetto è un disco dal vivo registrato a Finsbury Park di Londra il 15 luglio dello scorso anno. E potete trovare tutte e due le edizioni, sia 17 Going Under da solo che Live at Finsbury Park da solo, però c'è questo combo, questa unione, diciamo, che si chiama 17 Going Under Live, che con due piccioni prendete una fava, anche perché costa molto meno della somma dei due CD da soli. Ah, dimentichiamo che Sam Fender, proprio per fare un po' di soldi, ha fatto anche l'attore e il modello, e tuttora fa il modello per non mi ricordo quale casa, quale stilista, e però lui è veramente un ottimo musicista, un ottimo cantante, è una delle pochissime cose nuove veramente notevoli uscite dalla Gran Bretagna in questi ultimi anni. Molti quando parlano di lui tirano in ballo Bruce Springsteen, ma secondo me onestamente qualche panino lo deve ancora mangiare, però ci sono alcune cose che possono ricordare l'uomo del New Jersey che abbiamo visto recentemente in concerto a Tampa. E niente, dopo tutte queste chiacchiere andiamo ad ascoltarci il brano che ho scelto per aprire questa trasmissione del 22 febbraio 2023. Il pezzo si chiama Saturday. All right, I want to hear you. Pours up. And if I need help with the falsetto. And if Saturday don't come soon, I'm gonna lose my mind. Let's hear you. As loud as you can. Give yourselves a round of applause, you fucking legends. Nice boy, man. All right, let's do it properly. Yeah. Everyone at the back. And if... Everyone at got. Finsbury Park, in quel di Londra, venerdì 15 luglio 2022, Sam Fender in concerto con un pubblico calorosissimo e coinvoltissimo in quello che è questo brano che si chiama Saturday. Lo ripeto, l'album che potete trovare sia in versione unica, Live at Finsbury Park, lo potete trovare anche abbinato a una versione particolare del secondo album in studio di Sam Fender. L'album si chiama 17 Going Under, in questo caso viene chiamato 17 Going Under Live. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Saturday, sabato, e non è un caso che io abbia scelto questo brano, perché mi dà l'opportunità di farvi ascoltare una serie di brani che parlano del sabato. Il tema della prima parte di Città Fujiko Live Club di oggi è appunto sabato. E ad iniziare questa piccola rassegna è un grande personaggio che risponde a nome di John Fogerty. Molti di voi lo ricorderanno alla guida dei Creedence Clearwater Revival a cavallo fra gli anni 60 e gli anni 70, con tantissimo tantissimo successo. E però dopo, allo scioglimento della band, ci furono dei problemi legali con la casa discografica, nel caso specifico la Fantasy Records, che furono risolti solamente tanti anni dopo. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato ai Warner Bros. Studios di Burbank in California nel 1997 e il buon John Fogerty ci avvisa che è quasi sabato sera, almost Saturday night. John Fogerty. Cause it's almost Saturday.

Credo proprio che Elton John non abbia bisogno di presentazioni, è una delle rock star più famose in tutto il mondo. Ha scritto un sacco di canzoni un po' troppo melense per quel che mi riguarda, ma ha scritto anche questo pezzo che si chiama Saturday Night's Alright for Fighting, che invece è veramente molto molto potente. Il sabato sera è giusto per picchiarsi, non mi sembra una grande idea. Comunque il tutto viene da un album che si chiama Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, o per meglio dire dalla ristampa. L'album originale uscì nel 1975 come album e come long play, scusate, e poi è stato ristampato invece in tempi più recenti in doppia versione. Appunto c'è l'album originale debitamente remixato e un album live registrato il giorno il 21 giugno, che è il giorno del solstizio d'estate, ecco non mi veniva, del 1975 al Wembley Stadium di Londra. Un altro bel brano che parla di sabato si chiama Another Saturday Night, è stato scritto da Sam Cooke, ma la versione che vi faccio ascoltare invece arriva da un personaggio che si chiama Stephen Demetrio Georgiou, conosciuto anche come Yusuf Islam in tempi recenti, ma ai suoi tempi, ai tempi in cui era molto in voga, lo chiamavamo tutti Cat Stevens. Personaggio che alla fine degli anni 60 ha avuto, come dicevo, un successo strepitoso, poi ha avuto problemi di tubercolosi e è rimasto fuori dalle scene musicali per qualche tempo e poi si è convertito all'Islam ed è uscito definitivamente dalle scene, salvo poi tornare in tempi recenti. Questo album, che si chiama Magic Cat, è stato registrato nel 1976 e ritornerà più tardi, perché è stato registrato proprio in questo giorno, e nella seconda parte con Ricordi Udeggi lo ascolteremo. Ma intanto abbiamo Another Saturday Night di Sam Cooke, interpretato da Cat Stevens. And I ain't got nobody. I got some money cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful way. I got in town a month ago. I've seen a lot of girls since then. If I can meet them, I can get them. But yet I haven't met them. That's how I'm in the state I'm in. Lord, another Saturday night. And I ain't got nobody. I got some money cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful way. Another fella told me he had a sister who looked just fine. Instead of being my deliverance, she had a strange resemblance to a cat named Frankenstein. Lord, another Saturday night. And I ain't got nobody. I got some money cause I just got paid. I had someone to talk to. I'm in an awful way. It's hard on a fella when he don't know his way around. If I don't find me a honey to help me spend my money, I'm gonna have to blow this town. No, another Saturday night. And I ain't got nobody. I got some money cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful way. Saturday night. And I ain't got nobody. I got some money cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. means. You could understand just what I mean. All week long and quiet as a mouse, but on Saturday night to go from house to house. You don't have to pay the usual admission if you're a cook, a waiter, or a good musician. So if you happen to be just passing by, stopping at the Saturday night bitch spot, it wasn't rocking. It wasn't rocking. You never seen such scuffing and a shoving till the break of dawn. It wasn't rocking. It wasn't rocking. You never seen such scuffing and a shoving till the break of dawn. Now my buddy and me was on the main stem, fooling around just me and him. We decided we could use a little something to eat. We went to a house on Rampart Street, knocked on the door and opened with ease. A lush little missus said, come on in please. Before we could even bat an eye, we were right in the middle of a big fish fry. It wasn't rocking, it wasn't rocking. You never seen such scuffing and shoving till the break of dawn. It wasn't rocking. You never seen such scuffing and shoving to the break of dawn. Folks were having the time of their life. Blue Lou was jiving with Jimmy's wife. Over in the corner was a beat-up grand, played by a big fat piano man. Some of these folks wore expensive rocks. Some of them had on Bobby socks. Everybody there was nice and high at that particular Saturday night fish fry. It wasn't rocking. It wasn't rocking. You never seen such scuffling and a shovel till the break of dawn. It wasn't rocking. It wasn't rocking. You never seen such scuffling and a shovel till the break of dawn. Now my buddy and me, we fell right in. We had to just let the joy begin. Thinking we had a good place to play, the party was already on the way. All of a sudden the lights were low and everybody made it straight for the door. Man, I was so scared, didn't know where to go. I stood right there, fell on the floor. It wasn't rocking. It wasn't rocking. You never seen such scuffling and a shuffling till the break of dawn. It wasn't rocking. It wasn't rocking. You never seen such scuffling and a shuffling till the break of dawn. Now the women were screaming, jumping and yelling. The bottles was flying and the fish was smelling. Way up above all the noise they made, somebody hollered, get out of here, it's a raid! I didn't know we were breaking the law, but somebody hit me on the jaw. They had us blocked in from the front to the back, pushing us in a wagon like potato sacks. It wasn't rocking. It wasn't rocking. You never seen such cover and shuffle to the break of dawn. It was rocking. It was rocking. You never seen such cover and shuffle to the break of dawn. I could have got away if I had a chance. I was shaking just like St. Vitus dance. Tried to call in the bathtub. Policeman hollered, get out of there, bud. I was out of there like a house on fire. They put us all in that black mirage. They might have missed a pitiful view, but they got poor me and my buddy too. It wasn't rocking. It wasn't rocking. You never seen such cover that a shovel to the break of dawn. It wasn't rocking. It wasn't rocking. You never seen such cover that a shovel to the break of dawn. Jail in a day's condition. They booked each one of us on suspicion. The chick came down and went my bail. Finally got me out of that rotten jail. If you ever want to get a fist in your eye, just mention a Saturday night fish fry. I don't care how many fish in the sea, don't ever mention no fish to me. It wasn't rocking. It wasn't rocking. You never see such stuff that a shovel to the break of dawn. It was rocking. You never see such cover and a shovel till the break of dawn. E dopo tre personaggi famosissimi, John Fogerty prima, poi Elton John e quindi Cat Stevens, una band totalmente sconosciuta, una band che ha un nome lunghissimo e un po' assurdo. Si chiamano Forever, Fabulous Chicken Hawks, Show Band and All Star Review. In più c'è anche starring Big Luther Kent, che è il cantante di questa mega band con tanto di fiati, come avete sentito. Non è molto famosa e le notizie sono abbastanza scarse, vi dirò solamente che vengono dalla Louisiana e che in questo caso, in questo concerto, hanno come ospite speciale Blue Lou Marini, che molti di voi ricorderanno nel film e anche con la band Blues Brothers. Il pezzo che ci siamo ascoltati parla del pesce fritto del sabato sera, Saturday Night Fish Fry. Lo ripeto, il nome lunghissimo, Forever Fabulous Chicken Hawks Show Band and All Star Review. Heaven for what it's worth. Don't eat a big old pot of honey. Ancora un sabato notte, chiedevano i Grateful Dead, una band favolosa che ha dato il via a tutto quel movimento americano che si chiama Jam Bands Movement. Loro sono stati i primi a fare lunghi concerti, grandi improvvisazioni e anche i primi a pubblicare una caterva di album live. Infatti cominciò una serie che si chiamava Dick Speaks, poi alla morte del curatore di questa serie, che si chiamava Dick Latvala, subentrò Dave Lemieux, se ricordo bene, e la serie è andata avanti. Sono ormai più di 100 pubblicazioni che vanno avanti, ma parallelamente c'è un'altra serie che però si è un po' fermata, che si chiama tuttora View from the Vault, cioè una vista dalle radici, da quello che fu. E ne sono stati fatti 3 volumi, questo è proprio il terzo, che è stato registrato a Mountain View in California il 16 giugno del 1990. È la musica dei Grateful Dead, prendere o lasciare. I Grateful Dead hanno fatto più di 3500 concerti, se ricordo bene, tutti registrati, e nel corso del tempo verranno, credo, pubblicati tutti, anche troppo, perché sono tempi di pubblicazione sono veramente vicinissimi, e le nostre tasche piangono sicuramente. Get the groove and let the good times roll. We're gonna stay here till we soothe our soul. If it takes all night long. Entra adesso in scena un altro grandissimo, David Bowie. Abbiamo qui un album che si chiama Something in the Air, che fa parte anche questo di una serie che risponde al nome di Brilliant Live Adventures. Vi ho già fatto ascoltare a suo tempo, ai tempi della loro uscita, questi 6 CD che racchiudono registrazioni effettuate fra il 1995 e il 1999. Questo in particolare è a Parigi, all'Élysée Montmartre, scusate il francese pessimo, appunto è stato registrato il 14 ottobre del 1999. Il brano lo lasciamo introdurre dallo stesso David Bowie, che lo introduce appunto. This is very, very old. 1974 we're gone to now. And you have to imagine, lots of hair, right. much more makeup than I've got on. What else? What shall I put on tonight? What shall I wear tonight? Nothing. Nothing on, same old clothes. Emperor's New Clothes and this song. All about watching video to try and understand how to do sex. What a ridiculous subject for a song. It's called Driving Saturday. Formation in the this fallout saturation. Cursing at the astronaut that stands in steel by his cabinet. He's crashing out with Sylvia, the bureau supply for aging men. With starting head, he rages to the soul. Where once it raised, a sea that rages no more, like the big old films he saw. And turn her lights alight. She's uncertain if she likes him, but she knows she really loves him. It's a crash course for the ravers. It's a very much. E questi erano i Jam, che loro molto molto riconoscibili all'istante. Saturday's Kids è il pezzo che ci siamo ascoltati, tratto da un album che si chiama At the Rainbow, registrato naturalmente nell'omonimo locale londinese, album che non troverete in commercio in solitaria, ma è inserito in un triplo CD box set che si chiama At the BBC. Sono registrazioni effettuate appunto per l'ente radio televisivo di Stato britannico ed è molto interessante. Fra parentesi, diciamo che la versione normale è doppia, questa che vi ho proposto contenente anche questo At the Rainbow è la versione tripla, che è un po' più rara, ma ne vale assolutamente la pena. Il concerto dal quale è stato tratto, lo ripeto, Saturday's Kid, anzi Kids perché è plurale, è stato registrato il 4 dicembre del 1979, Jam naturalmente. A questo punto concludo con una piccola forzatura, nel senso che il brano che ci andremo ad ascoltare, bellissimo secondo me, si chiama Saturday Night Special, ma non parla di sabato. Saturday Night Special è il nomignolo, chiamiamolo così, il vezzeggiativo, che nel sud degli Stati Uniti danno alle armi, alle pistole prevalentemente da tasca. Per esperienza personale posso dirvi che praticamente tutti negli Stati Uniti del Sud hanno un'arma, se non in tasca a casa, per cui è una cosa veramente, è veramente deleteria. Ma malgrado la canzone si chiama in questo modo, non parla bene delle armi, anzi ne parla malissimo, e parla malissimo anche della guerra. È una delle canzoni più antiguerra che siano state mai registrate. Loro sono le Nesk Nerd, e di Sud se ne intendono naturalmente. Saturday Night Live a concludere questa prima parte di Città Fujiko Live Club, dedicata appunto al sabato. $20, you can buy yourself one too. Any old pawn shop will do. drink or whiskey. You're not even a shoot yourself. So why don't we dump on the people to the bottom of the sea? Before some old fool come around here, wanna shoot either you or me. Mr. Saturday Night, the special. Got a barrel with some blue and gold, yes, I did. Saturday night special. I'd like to tell you what you can do with yours too. Ain't no good. Oh, thank you, San Francisco. Thank you. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, iniziata come al solito con la novità che vi propongo quest'oggi: Sam Fender in concerto live a Finsbury Park, un concerto notevole immortalato in questo album che, come ho già detto, potete trovare sia in versione unica, cioè solo live at Finsbury Park, ma anche la versione insieme all'album precedente, l'album in studio precedente di Sam Fender, che si chiama 17 Going Under. E questo brano, che si chiama Getting Started, è stato registrato appunto a Finsbury Park venerdì 15 luglio 2022. Come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, 22 febbraio, nel passare degli anni, tantissime, ancora tantissime cose, addirittura oggi abbiamo 6 decadi, se tutto va bene, poi vi dirò perché. Ed iniziamo dal 1976, torna in scena Cat Stevens, ce lo siamo già ascoltati prima in un brano di Sam Cooke che lo ricorderete si chiama Another Saturday Night. Qui invece abbiamo dei pezzi più belli scritti da lui, un pezzo dolcissimo, pezzo veramente fantastico dedicato a una signora, ma prima devo dirvi che questo album che si chiama Magic Cat è stato registrato a Williamsburg in Virginia il 22 febbraio appunto del 1976. Questa è la magnifica Lady d'Urbanville. My Lady d'Urbanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill, my Lady d'Urbanville. Why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low, my Lady d'Urbanville? Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My Lady d'Urbanville, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white, my Lady d'Urbanville. Why do you sleep so still? Wake you tomorrow, oh, and you will be my fear. Yes, you will be my fear. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la. Lady d'Urbanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fear. I loved you, my lady, oh, oh, oh. Though in your grave you lie, always be with you. This rose will never die. This rose will never die. I loved you, my lady. Oh, oh, oh, oh. when your grave you lie. I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. Attualmente si fa chiamare Yusuf Islam dopo la sua conversione all'islamismo, appunto, e però in precedenza si chiamava Cat Stevens e nel 1976 registrò questo album, che però è stato pubblicato solamente nel 2009. E in questo album, appunto registrato il 22 febbraio del 1976, c'era questa canzone dedicata a Patti d'Urbanville, che per qualche tempo è stata la ragazza di Cat Stevens e doveva essere veramente un amore molto molto intrigante, perché questa canzone secondo me è bellissima. Andiamo con gli anni 80, siamo nel 1987, esattamente la notte in cui morì Andy Warhol, e ve lo dico dopo attente ricerche. Innanzitutto lo so perché lo dice Dan Baird in apertura di questo brano. Dan Baird era il leader dei Georgia Satellites, e poi perché si sa che Andy Warhol è morto il 22 febbraio del 1987. Quella sera Georgia Satellites erano in concerto e omaggiarono il grande artista con un medley di due pezzi, Night of Mystery e un pezzo di Lou Reed che si chiama I'm Waiting for the Man. Ce l'andiamo ad ascoltare. Georgia Satellites, 22 febbraio 1987. Anyway, I guess unless you've been hiding under a rock today, you heard about Andy Warhol dying today. So I'd like to send this next song out to him. It's called The Nights of Mystery. I think you know what I mean. You know, there's sometimes I just sit around and wonder about what is and what would never be. But you know, I'd much rather find myself lost out on the sweet nights of mystery. Yeah. Oh, now there's something that let me grow up crazy. Never bother to grow up at all, y'all. Me, I don't worry about any of that shit anymore. I just listen for my sweet lady to call. When she goes, here come, I'm gonna talk, talk, talk all the time about love, love. Got me light shines just like a diamond. I'd never give me enough. Ooh, here comes up again. Watching on you and me. That's what I love. Love to be caught out on your sweet nights of mystery. Si chiama Another Chance, questo CD single del 1989 che contiene questa meraviglia, secondo me, un medley, Nights of Mystery, I'm Waiting for the Man, registrato a Ritz, di New York City, da questa grande band che rispondeva al nome di Georgia Satellites. A dire il vero sono ancora in giro, ma dopo che Dan Baird, che è la voce che ci siamo ascoltati, dopo che Dan Baird ha lasciato la band nel 1990, non è più esattamente la stessa cosa. Comunque, tutto registrato il 22 febbraio del 1987. Vengo spesso accusato, fra virgolette per fortuna, di parlare troppo spesso di morti, e in effetti purtroppo è verissimo, ma i nostri beniamini hanno già una certa età, e non bastasse, altrettanti beniamini muoiono molto giovani, tipo quello che ci andiamo ad ascoltare adesso, un grandissimo che si chiamava Jeff Buckley. Lui è morto solamente 30 anni nel 1997, dopo aver fatto un solo album ufficiale che si chiama Grace, e che consiglio caldamente a tutti. Un grande, grande, grande cantante sulla scia del padre, che era Tim Buckley, e che purtroppo appunto è morto un po' troppo presto. Ho pensato di fare un bagno notturno nel Mississippi completamente vestito, e pare che avesse anche un paio di stivalacci che non l'hanno certamente aiutato, e il corpo è stato ritrovato solamente il giorno dopo. Dalla sua morte sono poi fioccate le pubblicazioni prevalentemente live, ce n'è anche uno in studio, ma prevalentemente sono dal vivo, tipo questo che si chiama Mystery White Boy, che è stato registrato in diverse occasioni. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato al Club Logo di Amburgo in Germania il 22 febbraio del 1995. Si chiama Dream Brothers, Jeff Buckley. touch her, her green eyes, blue goodbyes. With her head in her hands and your kiss on the lips of another. Dream of her with your tears scattered round the world. Don't be like the one who made me so old. We'll be right back. E questi erano i fratelli Robinson, detti anche Black Crowes, in questo caso anche faceva parte della band anche Luther Dickinson, questo è un altro discorso. Un album un po' anomalo, questo che si chiama Before the Frost, è stato registrato dal vivo, come avete sentito, davanti a un pubblico, però in uno studio discografico, in uno studio di registrazione, esattamente quello che Levon Helm, il compianto batterista mandolinista della band, impiantò in quel di Woodstock, e adesso è ricercatissimo. Ci sono tantissimi album che sono stati registrati lì, e nel corso di diverse serate i Black Crowes registrarono questo album, che è un album di inediti, non ci sono i pezzi più famosi nell'album, poi dal vivo li fecero, ma l'altra anomalia è che questo album, lo ripeto, si chiama Before the Frost, conteneva una carta con la quale si poteva scaricare un altro album che si chiama Until the Freeze, che si trova solamente in questo caso, cioè se comprate l'album in CD, appunto Before the Frost, avete la possibilità di scaricare anche il secondo album, diventando così alla fine un doppio album molto molto accattivante. E diventa così: Before the Frost, Until the Freeze, sarebbe prima del gelo, fino al congelamento. Black Crowes era il 22 febbraio del 2009, il pezzo che ci siamo ascoltati si chiama Been a Long Time Waiting on Love. Come on and won't you let me lay it down. E in precedenza avevo detto che ci saranno 6 decadi quest'oggi, se tutto va bene, e pare che tutto vada bene. Ho detto questo perché adesso ci andremo ad ascoltare un triplo CD che è stato scaricato in MP3, e i vecchi lettori qui di Radio Città Fujiko non sempre leggono a perfezione gli MP3. Ho provato prima, andava tutto bene, speriamo che vada tutto bene anche adesso. Sto parlando di Bruce Springsteen e della E Street Band. Il 22 febbraio 2014 erano in concerto alla Hope Estate Hunter Valley in Australia, e era il periodo in cui facevano tante covers. Inizia con una cover di un brano che si chiama Drinking Wine, poi durante il concerto, durante i bis, a dire il vero, fanno un altro pezzo che è Friday on My Mind, ma poi ci sono tutti i loro più grandi successi e anche quelli un po' minori, tipo quello che ci andiamo ad ascoltare. Si chiama High Hopes, Bruce Springsteen, The E Street Band, 22 febbraio 2014. Yeah. someone was surprised at me. By some time it made me live my life. Have a wife I want, have some kids I want. Look in their eyes and know they stand a chance. Grandi speranze, high hopes, erano quelle che riponevo io nella buona riuscita di questo MP3, che fra parentesi è l'unica cosa che a mia conoscenza è stata registrata negli anni 2010, il 22 febbraio, per questo rientra in Ricordi Today di oggi, con questo bootleg ufficiale Bruce Springsteen and the E Street Band at Hunter Valley in Australia. E non sempre, come dicevo in precedenza, gli MP3 funzionano a dovere. L'ultima cosa di Ricordi Today di oggi coinciderà anche con l'ultima cosa di Città Fujiko Live Club, perché il tempo è tiranno. Andiamo quindi a dire che vi siete ascoltati un paio di ore di musica live per la cronaca denominata Città Fujiko Live Club. Ogni mercoledì alle 10.30 un paio di ore di musica dal vivo di tutti i generi e di tutte le epoche, e infatti adesso cambiamo genere. Andiamo alla registrazione del 2020, siamo in quel di Londra, Hammersmith Eventing Apollo, e di scena una band molto molto popolare in tutto il mondo, si chiamano Dream Theater. Hanno fatto una caterva di album live fra ufficiali e official bootlegs, c'è fra l'altro in giro una serie nuova, relativamente, oramai un paio d'anni che c'è, che si chiama Lost But Not Forgotten, che comprende appunto registrazioni qua là. Questo è proprio ufficiale, se andate nella discografia dei Dream Theater appare appunto questo album, e ce l'andiamo ad ascoltare l'album, fra parentesi mi stavo dimenticando di dire, si chiama Distant Memories Live in London, Dream Theater, 22 febbraio 2020, il brano si chiama Barstool Warrior, a concludere Città Fujiko Live Club di oggi. Ciao a tutti da Nevio.